Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. È morto il mercante della morte, divenuto immensamente ricco con l'invenzione che permette di uccidere il maggior numero di persone nel tempo più breve mai concepito, è deceduto ieri a Cannes. Un uomo sta leggendo il proprio necrologio. Come il Mattia Pascal di pirandelliana memoria, un errore di persona lo dà per morto. In realtà è suo fratello ad essere mancato per un malore, mentre si trovava in vacanza in Costa Azzurra. A questa triste notizia si aggiunge il terribile scambio di persona. Il necrologio lo colpisce nel profondo. A differenza del personaggio frutto dell'incontenibile fantasia di Pirandello, che gioisce all'idea di essere considerato morto per poter rinascere a nuova vita, lui cade in una profonda depressione. Il mercante della morte, ecco come lo definiscono, ecco come ha scoperto che verrà ricordato quando la sua vita giungerà veramente alla fine. Per lui è un colpo tremendo. Non è questo quello che voleva. Quella sua invenzione di cui parla impietoso il giornalista francese doveva servire l'umanità, non certo annientarla. Ma poi, nelle mani delle persone sbagliate, ha preso vie che lui mai avrebbe voluto. L'uomo non è una forma fissa e permanente, ma è un tentativo, una transizione, un ponte stretto e pericoloso tra la natura e lo spirito. Verso lo spirito lo spinge il suo intimo destino. A ritroso verso la natura lo trae la sua intima nostalgia. Tra l'una e l'altra di queste forze oscilla la sua vita angosciata e tremante. Il grande scrittore tedesco Hermann Hesse, nel libro Il lupo della steppa, affronta il delicato tema del dualismo, dell'essere sempre in bilico fra istinto e ragionamento, fra natura e spirito. La profonda analisi dei meccanismi del pensiero umano che sta alla base di una produzione letteraria eccelsa vale all'autore il premio Nobel per la letteratura nel 1946. Tematiche riconosciute universali, la nobiltà d'animo e d'intenti e il loro opposto, la bestialità e il desiderio di profitto a ogni livello, rappresentano l'eterno conflitto dell'uomo nel corso dei secoli. Espressioni estreme di questo dualismo sono la guerra, esaltatrice di ogni bestialità umana, e la pace, fine ultimo delle società illuminate. Lo sa bene l'uomo del necrologio, mentre anni più tardi sta scrivendo una lettera. Sono felice di vedere che i movimenti per la pace nel mondo crescono a misura di quanto cresce l'educazione delle masse, e specialmente grazie ai combattenti contro i pregiudizi e l'oscurità, tra i quali tu sei al vertice. Questo riconoscimento è il titolo di merito che ti attende. L'uomo non è molto anziano quando scrive queste parole. Esattamente un mese prima ha compiuto 63 anni. Eppure è come se ne sentisse gravare sulle spalle 100 in più. Siede curvo al suo scrittoio nella stupenda villa dove abita a Sanremo, perla della Riviera Ligure. La persona alla quale sta scrivendo è una donna, una sua amica di vecchia data, Berta Kinsky von Suttner. 20 anni prima è stata la sua segretaria e benché abbia lasciato il posto di lavoro per sposare il barone von Suttner, si è sempre tenuta in contatto con lui. Berta è diventata negli anni una fervente pacifista. Ha scritto libri, partecipato a convegni ed è membro di associazioni per la diffusione della pace nel mondo e per il disarmo universale. L'uomo l'ha incontrata più volte negli ultimi 20 anni ed è fermamente convinto di dovere a lei la sua salvezza morale. Da quando ha letto il suo necrologio 8 anni prima, ha fatto di tutto per riscattarsi. Quello che egli ha realizzato nella sua vita è per certi aspetti meraviglioso, esaltante, anche universalmente riconosciuto. Ma per altri versi è terrificante, disastroso, mortale. La sua mente ha concepito qualcosa che nelle mani giuste rappresenta una grande ricchezza per l'umanità, ma nelle mani sbagliate è invece simbolo di morte e distruzione. Il suo nome è Alfred Nobel. Alfred Nobel. A soli 34 anni, Nobel presenta al mondo intero la sua invenzione, destinata a cambiare la storia. È il 19 settembre del 1867 quando brevetta la dinamite. Celebrate and live my life, saying, ayo, baby, let's go. Alfred Nobel ha organizzato tutto nei minimi dettagli. La cava di Red Hill, nel Surrey, in Inghilterra, è più che sicura e la sua dimostrazione sarà semplicemente spettacolare. I candelotti della sostanza da lui inventata sono pronti. L'ha chiamata dinamite, dal greco dynamis, che significa forza, potenza, perché il suo potere distruttivo è impressionante. E mentre le persone riunite rimangono attonite di fronte a una deflagrazione fino a quel momento inconcepibile, sia per la sua potenza, sia per la possibilità di gestirla che dimostra Nobel, l'inventore ripercorre quel cammino che lo ha portato fin lì. Nonostante sia solo il 21 ottobre, il freddo è pungente a Stoccolma. L'inverno del 1833 arriva in anticipo e si preannuncia uno dei più rigidi degli ultimi anni. Henriette Alsel Nobel ha le doglie. Ha già due figli maschi, Robert e Ludwig, e spera tanto in una femminuccia, ma con grande felicità del marito Immanuel nasce un altro bambino che i genitori chiamano Alfred. La famiglia Nobel è molto agiata. Il padre è ingegnere e inventore, si occupa in particolare di esplosivi. La madre viene da una ricca famiglia svedese ed è piuttosto colta. Gli affari del padre però languono e i Nobel decidono di trasferirsi da Stoccolma a San Pietroburgo, dove Immanuel realizza mine navali per lo zar, che verranno impiegate durante la guerra di Crimea. Rudimentali casse di legno riempite di polvere da sparo, eppure estremamente efficaci. Alfred, che ha solo 9 anni quando arriva in Russia, viene educato privatamente da un insegnante molto particolare, il grandissimo chimico Nikolai Nikolaevich Zinin. È costui un uomo appassionato, profondo conoscitore della sua materia e trasmette questo amore grandissimo che ha per la chimica ad Alfred. Benché fosse piccolo, Nobel era molto ricettivo e adorava la chimica. Sembrava fosse nato apposta per realizzare qualcosa di grande in quel campo. Io gli ho solo dato le nozioni fondamentali, ma poi ha fatto tutto da solo. La chimica è la sua vita. Questo sta pensando Alfred mentre trascrive sul quaderno alcune formule che gli ha dettato il suo maestro. Non c'è nulla di esistente che possa prescinderne. Anche i rapporti umani sono regolati da reazioni chimiche e il giovane Nobel decide che dedicherà la sua vita a questa scienza. Quando la sua famiglia alcuni anni dopo rientra a Stoccolma e lui deve lasciare le lezioni di Zinin, chiede al padre il permesso di recarsi a New York da John Ericsson, inventore svedese che si è trasferito negli Stati Uniti. Certo, Alfred è un adolescente, ma la sua passione è tale che il padre gli accorda questo viaggio di studio. La traversata verso l'America è lunga, più di un mese in mare. Ma per Alfred è solo l'occasione per studiare con calma e rimettere a posto tutti gli appunti. La sua determinazione è assoluta. L'incontro con Ericsson è fondamentale per lui. Sia John che suo fratello Nils sono inventori. Il primo realizzerà il monitor, primo prototipo delle moderne corazzate. Il secondo progetterà la prima linea ferroviaria svedese. L'atmosfera in casa Ericsson è elettrizzante. Alfred assorbe come una spugna da John tutte quelle informazioni che anni più avanti lo aiuteranno nella sua avventura di inventore. È qui, sul suolo americano, che il giovane Nobel decide che anche lui inventerà qualcosa di utile per l'umanità, qualcosa che faccia passare alla storia il suo nome. Anche se giovanissimo, dimostra fin da allora le sue grandi doti di imprenditore, capace di mettere a frutto i risultati delle proprie ricerche. L'autrice Elena Pugliese sottolinea questo aspetto della personalità del grande inventore svedese. È stato fin da subito, da giovane, perché si parla comunque di uno scienziato che è diventato tale attorno ai 16-17 anni, quindi immediatamente ha manifestato la sua capacità imprenditoriale, quindi di essere proprio un imprenditore di se stesso, fin da subito. E quindi una spinta molto molto molto forte, non solo da un punto di vista di scoperte scientifiche, ma anche proprio da un punto di vista di ottimizzare, diciamo, le sue scoperte, ecco, non lasciarle lì. Tornato a Stoccolma, il giovane Alfred continua i suoi studi di chimica. Sta leggendo un giornale francese nel quale si parla di recenti scoperte nel campo degli esplosivi, un argomento che lo affascina moltissimo, quando viene a sapere che uno dei suoi miti, il professor Théophile Jules Pelous, cattedratico di fama mondiale, ha fondato una scuola laboratorio sperimentale a Parigi. Questa notizia lo esalta all'inverosimile. Pelous ha pubblicato studi interessantissimi sui nitrosolfati e su altri composti chimici che lo interessano moltissimo. Deve assolutamente entrare nella sua scuola. Nobel ha solo 17 anni, ma una conoscenza oramai molto profonda della chimica. Il padre non se la sente di negargli questa opportunità. Comprende che la scuola di Parigi può rappresentare per suo figlio una svolta professionale importante, ma non può certo immaginarsi fino a che punto. È così che il giovane Alfred sale su un treno diretto verso la Ville Lumière. Péché contre le corps, mais non contre l'esprit. Laissons le monde à ses problèmes. Les gens haineux face à eux-mêmes. Avec leurs petites idées. Mourir d'aimer. Alfred Nobel arriva a Parigi nel 1850. La città è superba e lui se ne innamora all'istante. È un colpo di fulmine che durerà tutta la vita. Mentre passeggia per le sue strade, visita Notre Dame o scivola sul lungo Senna. Si sente veramente libero e pronto ad affinare i suoi studi. L'occasione è più unica che rara. La scuola del professor Palouse, chimico di grandissima fama, è quanto di meglio si possa trovare in tutta Europa. L'incontro con il grande scienziato è commovente. Nobel ha con sé una lettera di presentazione di Zinin che dice di lui meraviglie. Ha solo 17 anni, ma le sue conoscenze e la sua determinazione lo rendono l'allievo perfetto. Palouse non è un inventore. Il suo sistema di lavoro è basato sull'investigazione. Analizza e confronta. Si occupa soprattutto di acidi organici, nitrosolfati. Studia perfino la composizione del vetro. Il suo contributo alla determinazione del peso atomico di diversi elementi è fondamentale nella storia della chimica. Come ha fatto a San Pietroburgo nel laboratorio di Zinin, Nobel assorbe quante più informazioni possibile. Quella di Palouse è una vera e propria scuola, con lezioni che si svolgono a orari precisi, una classe composta da diversi chimici, tutti decisamente più grandi di età del giovanissimo Alfred Nobel, che diventa quasi la mascotte del gruppo. Lui però non fa amicizia facilmente, è piuttosto schivo e interessato solo alla conoscenza. Anni più avanti spiegherà questa sua attitudine. Non mi affeziono facilmente né alle persone né ai luoghi. La mia casa è dove io lavoro e il mio lavoro può essere ovunque. Degli studenti che frequentano le lezioni di Palouse, a Nobel importa poco. È un orso schivo e riservato e pensa solo ad apprendere il più possibile. Vi è però una persona che il maestro cita spesso, un suo ex allievo di 10 anni prima che ha fatto ritorno in patria, in Italia, del quale Nobel è estremamente curioso. Non sa come si chiami né quali siano i suoi interessi specifici, ma Palouse ne parla con affetto e ammirazione e i due spesso si scambiano delle lettere. È come se ci fosse un segreto tra di loro. Un giorno in cui Alfred sta portando a termine un esperimento da solo, dopo la fine delle lezioni, Palouse si mette a chiacchierare amabilmente con lui e Alfred, facendosi coraggio, gli chiede di parlargliene. È così che per la prima volta Alfred Nobel sente pronunciare un nome che non dimenticherà mai più per tutta la vita. Ascanio Sobrero. Ascanio Sobrero. Il racconto di Théophile Jules Palouse si preannuncia decisamente interessante. Il maestro conosce molto bene la storia di Sobrero e pensa che gli studi del suo ex allievo possano rappresentare un punto fermo nella preparazione del giovane Nobel. Per questo i suoi ricordi partono da molto, molto lontano. È a metà del Settecento che il re Carlo Emanuele III incarica l'ingegnere De Vincenti di costruire a Torino un arsenale di guerra dove fondere cannoni e altre armi. Lo splendido edificio vede la luce ben 50 anni dopo, ma è magnifico e in tutta Europa lo conoscono per la sua imponenza e per l'eccellente qualità delle fusioni che produce. Intorno al 1830 ne è direttore del laboratorio di chimica l'ufficiale dell'esercito Carlo Raffaello Sobrero, un uomo tutto d'un pezzo, bravissimo militare, ma soprattutto grande appassionato di esplosivi. Carlo ha un nipote, figlio di suo fratello Giuseppe, a cui è affezionatissimo. Si chiama Ascanio. Originario di Casale Monferrato, il giovane si trasferisce con la famiglia a Torino, dove si laurea in medicina, seguendo le orme paterne. Ma è la chimica la sua passione segreta e suo zio lo sa. Così come sa che Torino non è la città ideale dove suo nipote può approfondire le sue ricerche. È lui che lo spinge a peregrinare per l'Europa nelle vere capitali della chimica, facendone uno scienziato internazionale, come ricorda Luigi Cerruti, storico della chimica. Sobrero è stato un grande chimico, però non è soltanto stato un grande scopritore. Lui è stato un cittadino a tutto campo, ha lavorato prima a Parigi, poi in Germania, quindi aveva un'esperienza internazionale di grande livello, un ottimo chimico analitico. Quando si è trovato poi in Piemonte, dopo i fatti del 48, ha partecipato a quella che è stata, diciamo, la costruzione di una città scientifica, sostanzialmente. Lui ha lavorato in una delle strutture importanti che si dimenticano di essere state nel Piemonte risorgimentale, e cioè nell'arsenale militare di Torino, che ha portato anche grandi scienziati sulla ribalta come Menabrea. Quindi è un uomo del risorgimento e testualmente un uomo della scienza. Il giovane Sobrero si dirige a Parigi, chiamata anche cervello del mondo. All'epoca è la capitale politica, letteraria, artistica, scientifica, finanziaria e commerciale d'Europa, definita da Balzac come un sublime vascello carico di intelligenza. Ascanio si trova spaesato da questa immensa differenza rispetto al suo paese. La nostalgia è il sentimento che assale la sua mente. Pensa alla famiglia lasciata in Italia, ai grandi sacrifici fatti dai suoi genitori per garantirgli uno studio in quell'ambiente chimico inesistente a Torino. Nonostante l'ausilio dello zio, è solo in questa metropoli così diversa da Casale Monferrato. Ma davanti a sé ha un impegno importantissimo e fondamentale, un piano di studi che lo privilegia nei confronti di altri studiosi italiani. Ha sentito molto parlare del professor Palouse e degli esperimenti che questi sta già conducendo da tempo sull'acido nitrico e sui suoi effetti esplosivi. La sua permanenza in terra francese non dura molto, solo 3 anni, ma sono un tempo più che sufficiente per apprendere tutto ciò che gli serve e soprattutto per instaurare un rapporto profondissimo con il suo professore, con il quale, una volta partito, inizia una fitta corrispondenza che durerà tutta la vita. La tappa successiva di Sobrero è la Germania, a Gießen, dal grandissimo Justus von Liebig, uno dei più illustri chimici tedeschi, il quale, alcuni anni più tardi, fonda la compagnia Liebig's Fleisch Extract, che produrrà con grandissimo successo una sua invenzione, l'estratto di carne, quale alternativa economica e nutriente alla carne stessa. È così che nasce quello che tutti noi oggi conosciamo, il dado da brodo Liebig. È saggio preferire brodi Liebig. Per le minestre, la saggia donna di casa preferisce sempre i famosi prodotti per brodo Liebig. Sobrero è nello studio di von Liebig. L'insigne scienziato tedesco sta facendo alcuni esperimenti con degli strani elementi difficilmente reperibili in un laboratorio chimico. Lo zucchero di canna e addirittura i tuberi di dahlia. Questi esperimenti lo portano ad approfondire alcune sostanze presenti nelle due piante. È così che Sobrero isola la mannite, sostanza derivata dalla manna. Combinandola con l'acido nitrico, Ascanio inventa la nitromannite, esplosivo detonatore particolarmente facile da realizzare e da conservare. Nello stesso anno, altre caratteristiche dello zucchero lo portano a individuare il saccarosio fulminante. Ma Sobrero non è soddisfatto. Si tratta di esplosivi di poco conto, con una potenza limitata. Niente a che vedere con quello che lui sogna da anni di ottenere, un esplosivo potentissimo che possa essere impiegato nelle opere umane della nascente società di metà secolo. Si inizia a parlare di ampliamento delle vie di comunicazione, creazione di tunnel, sviluppo dell'industria mineraria. Ascanio ne è certo, se la chimica è, come lui ben sa e sostiene, l'essenza stessa della vita, la nuova vita che attende la società a venire non può che nascere dall'opera di un chimico. Solo la morte m'ha portato in collina, un corpo fra i tanti a dar fosforo all'aria, per bivacchi di fuochi che dicono fatui, che non lasciano cenere, non sciolgono la brina. Solo la morte m'ha portato in collina. Da chimico un giorno avevo il potere di sposar gli elementi e farli reagire. Destini incrociati. Ho fatto gocciolare della glicerina in una miscela nitrante, ossia acido nitrico concentrato al 90% e acido solforico concentrato al 98%. La proporzione è di 35 a 65. Ne è scaturito un esplosivo di estrema potenza. L'ho chiamato nitroglicerina. Ascanio Sobrero è un giovane chimico torinese appena rientrato in patria dopo alcuni anni di peregrinazioni nelle città europee più accreditate per le sperimentazioni chimiche. Ha studiato presso il professor Paluso di Parigi, da von Liebig, in Germania, dove ha messo a punto diversi tipi di esplosivi derivati dallo zucchero e da altri componenti naturali. Ma è solo ora che finalmente può dirsi soddisfatto. Dopo aver effettuato decine e decine di esperimenti, è riuscito infine nel suo intento: inventare un esplosivo dalla potenza dirompente che possa trovare impiego nelle nuove realizzazioni della nascente era moderna. L'anno è il 1847 e si parla di trafori di montagne per creare nuove vie di comunicazione più dirette, attraverso tunnel scavati nella roccia, ma anche delle nuove necessità dell'industria mineraria estrattiva, che sta subendo un incremento esponenziale in tutto il mondo. Sobrero sta parlando ai suoi colleghi chimici e a numerosi industriali che si sono radunati nel laboratorio dell'Accademia delle Scienze di Torino. È un pubblico attentissimo, anche emozionato, quello che siede di fronte al giovane chimico per assistere al suo esperimento. Sobrero fa entrare due collaboratori che a fatica trascinano al centro del salone un'incudine e vi posano sopra un enorme martello. Con estrema cautela e con una lentezza snervante, Sobrero deposita ai piedi dell'incudine un'enorme scatola che contiene un'ampolla di nitroglicerina. Fa scivolare sull'incudine una gocciolina di olio esplosivo e la schiaccia con una martellata. L'effetto è strabiliante. Il martello per lo scoppio viene lanciato via di parecchi metri. La nitroglicerina viene immediatamente considerata l'esplosivo più potente mai realizzato al mondo. Tra l'altro Sobrero, che non dimentichiamo è laureato in medicina, scopre un'altra proprietà molto importante della sua invenzione, come ricorda il cardiologo Federico Ferraris. È un farmaco cardine nel trattamento della cardiopatia ischemica, cioè tutto quello che è problema di coronarie, angina, infarto, tutta quella famiglia di problemi lì. La nitroglicerina, per motivi che ancora non conosciamo completamente, dilata le coronarie, cioè riapre i vasi che sono chiusi. Se un paziente ha i vasi cronicamente chiusi, come l'anginoso, questo farmaco li mantiene aperti e di fatto gli toglie l'angina. Se c'è una crisi invece di angina instabile o di infarto, la nitroglicerina priva endovenosa ha lo stesso scopo e quindi può risolvere il quadro. Ascanio Sobrero si rende perfettamente conto di avere scoperto qualcosa di davvero unico. Al di là delle sue proprietà curative, quale vasodilatatore, che la introducono di diritto nella farmacopea mondiale, la nitroglicerina è un esplosivo potentissimo e le sue applicazioni possono essere infinite. Ma c'è un ma. È estremamente instabile. Basta un nulla per farla scoppiare, in quanto i legami delle sue molecole sono molto deboli. Questo fa di lei un composto pericolosissimo. Sobrero si chiude quindi nel suo laboratorio, dove sperimenta, prova, cerca. Deve trovare il modo di rendere stabile la sua invenzione, altrimenti essa non potrà essere di alcuna utilità. Scrive anche al professor Paluz, forse sperando che egli possa infondergli coraggio e possa dargli qualche saggio consiglio. Esimio maestro, la nitroglicerina mi spaventa. Se non si riuscisse ad arginarne gli effetti devastanti, sarebbe meglio che io ne sconsigliassi l'uso con tutte le mie forze. Non la si può trasportare, non la si può usare senza rischiare di continuo la vita stessa. Sobrero si trova nel suo laboratorio e sta febbrilmente cercando la soluzione che oramai è diventata il suo chiodo fisso. Un sistema per stabilizzare la nitro. Improvvisamente, un'ampolla gli sfugge dalle mani e cade sul pavimento. La deflagrazione è sconvolgente e lui stesso sfugge alla morte per un pelo. Il suo laboratorio viene danneggiato in maniera grave ed egli, seppur a malincuore, prende una decisione irrevocabile. Quella sua invenzione va abbandonata. È troppo rischiosa. La decisione di Ascanio Sobrero di abbandonare le sue ricerche sulla nitroglicerina e di riporla al sicuro nel dimenticatoio per via della sua eccessiva pericolosità fa presto il giro del mondo. Una cocente delusione per molti chimici, ma specialmente per Paluz a Parigi, von Liebig a Gießen e perfino per Zinin a San Pietroburgo, che pure studierà per anni l'applicazione medica della nitro fino a renderla prescrivibile ai cardiopatici. Di sicuro, colui che maggiormente si sente vicino a Sobrero, il suo ex allievo, il fiore all'occhiello della sua scuola, è Théophile Jules Palouse. Ed è questo che sta raccontando al giovanissimo Alfred Nobel, che arriva da lui solo 3 anni dopo la drastica decisione di Sobrero. Alfred Nobel non ha ancora 18 anni ed è animato da quell'entusiasmo senza freni che caratterizza l'età giovanile. La chimica è tutta la sua vita, ma non solo. La sua capacità imprenditoriale, che fa capolino fin dai suoi anni giovanili, gli dice che la nitroglicerina non va abbandonata nel sottoscala di un laboratorio chimico. E se Sobrero non se la sente di continuare nei tentativi, lui invece è più che pronto. Seppur fra alti e bassi, le sue sperimentazioni proseguono con determinazione. Anche perché non vi sono limitazioni di sorta. Sobrero non ha mai brevettato la nitroglicerina, non ne vede gli sviluppi industriali, è un chimico puro. Non certo un uomo d'affari, come ricorda Elena Pugliese, autrice ed esperta della vita di Sobrero. Sobrero sicuramente è stato un grandissimo scienziato, un grandissimo accademico, un professore universitario. È stato un grande conservatore anche, cioè aveva un carattere sabaudo di metà 800. La sua vita è stata molto fissa, ecco, non mobile. Lui, a parte i due viaggi che ha avuto a Parigi e poi in Germania, poi di fatto si è mosso tra via Po e via San Francesco da Paola, ecco, quindi si parla proprio di isolati in cui Sobrero si è mosso, e dentro lui è un uomo da laboratorio. Alfred Nobel inizia un carteggio con Sobrero. Egli crede fermamente di poter stabilizzare la nitro e anche il padre lo asseconda in questa sua convinzione. Tutta la famiglia partecipa trepidante, in attesa che succeda qualcosa. Ma gli incidenti di percorso ci sono e come. Sarebbe impensabile che si possa maneggiare per anni un preparato come la nitroglicerina senza incappare in qualche guaio. È una notte calda, quella del 3 settembre 1864. Nella fattoria dei Nobel ad Eleneborg, nei sobborghi di Stoccolma, nessuno dorme. Alfred è in viaggio, ma anche senza di lui si sta portando a termine l'ennesimo esperimento, cercando di stabilizzare un gran quantitativo di nitro. All'improvviso però qualcosa va storto. Un'esplosione paurosa deflagra nel laboratorio. Il consuntivo è drammatico. Immanuel Nobel, il padre di Alfred, perde entrambe le gambe e si contano ben 5 morti, tra i quali Emil, il fratello più piccolo. Alfred apprende la notizia solo il giorno dopo e si precipita a consolare l'adorata madre, così duramente colpita. Di fronte a una tragedia familiare di questa portata, molti si scoraggerebbero, ma non Alfred. Pur se colpito nei suoi affetti più cari, la sua decisione è quella di proseguire. È lo stesso padre che lo spinge a tentare ancora. La soluzione è ormai vicina. Destini incrociati. La mia dinamite porterà alla pace più in fretta di migliaia di convenzioni. Il giorno in cui due armate si potranno distruggere reciprocamente nell'arco di un secondo, tutte le nazioni civilizzate non potranno che arretrare inorridite e procedere a smantellare gli eserciti. La baronessa Bertha von Suttner ha appena terminato di leggere la lettera che Alfred Nobel le ha scritto. Sono molti anni che si conoscono e che un profondo affetto li lega. Ma questa volta la donna non concorda con l'amico. Per lei, fervente pacifista e autrice di numerosi libri e scritti che auspicano il disarmo totale di tutti i paesi del mondo, l'inventore della dinamite è solo un illuso. Nobel ha passato gli ultimi 20 anni della sua vita cercando di stabilizzare la nitroglicerina, potentissimo esplosivo inventato nel 1847 da Ascanio Sobrero. Il chimico italiano ha rinunciato a lavorare alla sua invenzione, ritenendola troppo pericolosa. Nobel, invece, è convinto di poterla domare e va avanti, nonostante i molti incidenti di percorso, compresa la morte del fratello Emil. Una sera Alfred si trova nel suo laboratorio. Sta estraendo un'ampolla di nitroglicerina dal suo contenitore, liberandola dalla farina fossile, la terra diatomacea, un materiale adatto a tenere l'ampolla dritta. Forse la stanchezza, più probabilmente il desiderio di trovare quello che sta cercando da anni, rendono il chimico particolarmente maldestro. Ed ecco che alcune gocce di nitro cadono dalla boccettina. Eppure non avviene nessuna esplosione. Ecco, finalmente dopo anni e anni, la soluzione era lì a portata di mano. Mischiando la soluzione oleosa inventata da Sobrero con della semplice farina fossile, Alfred Nobel realizza un composto pastoso, estremamente stabile. È nata la dinamite. Il primo pensiero di Nobel corre a colui che ha reso possibile tutto questo, Ascanio Sobrero. Carissimo collega, non posso che congratularmi con lei ancora una volta per la sua scoperta grandiosa, la nitroglicerina. Finalmente sono riuscito a stabilizzare il composto per renderlo più utilizzabile, grazie alla farina fossile. Entrambi abbiamo avuto degli incidenti di percorso, anche lutti nel mio caso. E quindi è una grandissima cosa aver potuto domare la potenza esplosiva della sua scoperta. Nobel brevetta la dinamite nel 1867 e da quel momento non si ferma un attimo, dando il via a un'intensa attività scientifica e industriale. Nel giro di pochissimo tempo apre oltre 20 fabbriche in tutta Europa, compreso il dinamitificio di Avigliana, vicino a Torino, la città di Ascanio Sobrero. Finalmente la collaborazione tra i due chimici diventa attuabile, come ricorda la voce guida del Museo del Dinamitificio. La nascita dello stabilimento di Avigliana permise ad Ascanio Sobrero di entrare in contatto con Alfred Nobel, che per la messa in funzione di questo dinamitificio richiese proprio la sua collaborazione. Il rapporto tra Sobrero e Nobel, fino a quel momento caratterizzato da una fitta corrispondenza, acquista un'aura di segretezza voluta fermamente dai due chimici. Quanto è stato prodotto dalle loro menti, la nitro e poi la dinamite, rappresenta sicuramente uno dei raggiungimenti più importanti nella storia della chimica. Si tratta di un composto la cui manovrabilità consente di utilizzarla per tutti quegli impieghi civili a cui tanto aveva pensato Sobrero e che Nobel considera i capisaldi del suo business. Il traforo del San Gottardo in Svizzera, ad esempio, il tunnel più lungo del mondo, con ben 57 chilometri di sviluppo, inizia la sua costruzione proprio grazie alla dinamite di Nobel. Purtroppo, però, un esplosivo così potente fa gola ai signori della guerra e ingenti produzioni di dinamite trovano impiego nei conflitti bellici. Quello che Nobel pensava sarebbe accaduto, il miraggio di un disarmo universale, del quale parla nella sua lettera alla baronessa von Suttner, è ben lontano dall'avverarsi. Molto più realista, invece, è Ascanio Sobrero. Non è il mezzo usato dall'uomo, al servizio della sua cattiveria, da Caino in poi che va condannato, ma la cattiveria stessa dell'animo umano. Essa prevale sulla mente eccelsa e la bestialità cavalca ben oltre la ragionevolezza con il suo suono veloce. La collaborazione fra Ascanio Sobrero e Alfred Nobel al dinamitificio di Avigliana è dunque avvolta da un fitto mistero. I due chimici temono sempre più che un utilizzo inconsapevole della loro scoperta porti alla distruzione di massa e a impieghi bellici incontrollabili. In effetti, il dualismo della figura di Nobel si contrappone sempre più allo schivo defilarsi di Sobrero, che si ritira nella sua Torino divenendo professore universitario. Il chimico svedese è invece sempre più famoso e ricco. Il brevetto della dinamite gli porta guadagni talmente ingenti da renderlo ben presto uno degli uomini più ricchi del suo tempo. Ma Nobel non dimentica certo l'importanza della scoperta di Sobrero e nonostante il chimico italiano non abbia alcuna pretesa sul brevetto della dinamite, gli riconosce un vitalizio molto generoso. Permettetemi di rinnovarvi, in occasione dell'amabile lettera che mi avete scritta, l'espressione dell'ammirazione e del profondo rispetto che mi avete sempre ispirato. È encomiabile la felice idea di commemorare in Avigliana la grande scoperta che il mondo vi deve e la simpatica figura dello scopritore. Con queste parole, Nobel inaugura un busto dedicato al collega Sobrero che con grande spirito di ammirazione fa erigere nel dinamitificio. Grandi onori, ma anche terribili oneri spettano al chimico svedese. Alfred Nobel è certamente ricchissimo, indubbiamente famoso, ma per contro viene additato come il mercante della morte. La sua invenzione, la dinamite, è foriera di lutti, causa di distruzioni di massa e di una violenza inaudita, inconcepibile in quegli anni. Nobel però non ci sta. Non vuole essere ricordato così. Ecco perché chiede aiuto ancora una volta alla sua cara amica, la baronessa Bertha von Suttner. Ed è proprio sua l'idea che gli permette di riscattarsi. La pace è il più grande dei benefici. O meglio, l'assenza della maggiore fra le sciagure. È l'unica condizione che permetta agli interessi delle nazioni di prosperare. Se vuoi essere ricordato per qualcosa di grande, è alla pace che devi puntare. Alla pace e a tutto ciò che concorre a rendere l'umanità più colta, ad elevarsi, a maturare una coscienza sociale, a lavorare per la salute e la prosperità dei popoli. Alfred Nobel sta leggendo le parole della sua grande amica. Improvvisamente un'idea trova spazio nella sua mente, sempre abituata a cercare l'invenzione, ad andare oltre. È così che prende forma l'iniziativa che renderà il suo nome immortale e amato in tutto il mondo per la magnificenza del suo gesto. È il 27 novembre del 1895. Nobel invita una gran folla nel salone del club svedese-norvegese di Parigi. Qui egli legge le sue volontà testamentarie. La totalità del mio patrimonio dovrà essere utilizzata nel modo seguente. Il capitale dai miei esecutori testamentari impiegato in sicuri investimenti dovrà costituire un fondo i cui interessi si distribuiranno annualmente in forma di premio a coloro che durante l'anno precedente più abbiano contribuito al benessere dell'umanità. Detto interesse verrà suddiviso in 5 parti uguali da distribuirsi nel modo seguente. Una parte alla persona che abbia fatto la scoperta o l'invenzione più importante nel campo della fisica. Una a chi abbia fatto la scoperta più importante o apportato il più grosso incremento nell'ambito della chimica. Una parte alla persona che abbia fatto la maggior scoperta nel campo della fisiologia o della medicina. Una parte ancora a chi, nell'ambito della letteratura, abbia prodotto il lavoro di tendenza idealistica più notevole. Una parte, infine, alla persona che più si sia prodigata o abbia realizzato il miglior lavoro ai fini della fraternità tra le nazioni, per l'abolizione e la riduzione di eserciti permanenti e per la formazione e l'incremento di congressi per la pace. Esattamente un anno dopo, il 10 dicembre 1896, Alfred Nobel muore per complicazioni cardiache. È curioso che per alcuni mesi egli venga curato con un farmaco a base proprio di nitroglicerina, la sostanza inventata dal suo caro collega Ascanio Sobrero. Dal 1901, anno della sua prima assegnazione, il premio Nobel viene considerato all'unanimità come l'encomio supremo dell'epoca contemporanea, un lascito milionario che il mercante della morte dona come estremo atto d'amore per la vita.